Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. A partire da questa sera, per 5 settimane, ci occuperemo di normativa nel settore del risparmio energetico e delle rinnovabili. È un tentativo di tracciare un quadro, certamente non esaustivo, di quelli che sono gli aspetti appunto normativi e autorizzativi più rilevanti. E proprio per orientare il focus delle puntate su quelli che sono percepiti da voi ascoltatori come gli elementi più critici, vi invitiamo ad aiutarci a identificarli. E quindi scrivete e segnalateci i vostri dubbi. Ebbene, per cominciare è sembrato naturale partire da uno dei pilastri della normativa sulle rinnovabili, ovvero l'autorizzazione unica. Ne parliamo con Lucia Bitto, che è responsabile dell'ufficio legale di APER, quello che insomma si occupa delle questioni normative. APER è l'associazione produttori energie rinnovabili. Buonasera Bitto e benvenuta a Mr. Kilowatt. Buonasera, grazie. Allora Bitto, intanto, vabbè, che cos'è questa autorizzazione unica? Soprattutto a chi serve, cioè chi deve chiedere l'autorizzazione unica? Ma l'autorizzazione unica è un atto amministrativo che consente la costruzione e l'esercizio degli impianti che producono energia da fonti rinnovabili. È richiesta per gli interventi di modifica, di potenziamento, di rifacimento totale o parziale o riattivazione degli impianti e per impianti, diciamo, oltre una certa soglia. Quindi per impianti piccoli non serve l'autorizzazione unica, si seguono altre vie. Per sì. Impianti più grandi di un tot, dipende dal tipo di fonte, esatto. Invece bisogna richiedere questa autorizzazione unica. Una volta che uno ce l'ha in mano può costruire l'impianto. Può costruire l'impianto e esercirlo, quindi connetterlo alla rete e produrre energia. Diciamo che la chiave di volta di questa disciplina è il fatto di avere un unico atto abilitativo che contiene tutti gli atti di assenso, permessi, nulla osta, di cui un tempo il produttore doveva munirsi per costruire ed esercire l'impianto. Cioè questo vuol dire che prima il produttore, prima del 2003 credo. Sì, 2003. Il produttore doveva girarsi lui tutti i vari enti, doveva sentire lui tutti i pareri, in questo caso si va da un ente solo, che è quale? Che è o la regione oppure la provincia territorialmente competente, se la regione ha deciso di trasferire, anzi di delegare queste competenze alle province. D'accordo. Ecco, quali sono più o meno i contenuti? C'è questo ufficio che sarà delegato a fare queste operazioni, che andrà a sentire appunto diversi pareri. Tipicamente che pareri vengono ascoltati? Che cosa succede insomma? Si ascolta il comune, quindi per gli aspetti di natura urbanistica, edilizia, poi ci può essere la necessità di effettuare una valutazione di impatto ambientale, quindi aspetti di natura ambientale, aspetti di tutela del paesaggio, magari l'area ricade in area protetta o magari ricade in un'area parco, quindi occorrerà sentire l'ente parco, oppure si tratterà magari di fare una valutazione di incidenza nel caso in cui l'impianto ricada in aree SIC o ZPS, poi c'è sempre da sentire il Ministero delle Comunicazioni per il nulla osta, poi magari si tratta di aree vincolate, quindi bisogna chiedere lo svincolo, insomma, eccetera. È molto complicato il tutto. Sì. Ecco, ma poi funziona alla fine? Intanto ci sono dei tempi prefissati? Allora, la disciplina che è, lo preciso, è contenuta nell'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003, fissa il termine di 180 giorni che ormai anche la Corte Costituzionale ha riconosciuto come principio fondamentale della materia. Quindi il termine è di 180 giorni. Questo vuol dire che necessariamente in 180 giorni uno deve ottenere una risposta, sì o no? Allora, dovrebbe ottenere una risposta. Mi piace dire che 180 giorni non sono 6 mesi, sia per le ipotesi, diciamo così, normali, nel senso che nel corso del procedimento può accadere che l'amministrazione richieda integrazioni, richieda chiarimenti e quindi tra il momento in cui li richiede e tra il momento in cui vengono forniti il termine viene sospeso e poi riprende a decorrere, quindi non sono 6 mesi nelle ipotesi, diciamo così, fisiologiche. Per esempio cos'è che può succedere? Può chiedere, può chiedere delle informazioni in più, dei chiarimenti sui progetti, delle cose che magari non sono chiare, necessitano di essere meglio esplicitate, oppure degli elaborati che non sono stati prodotti ma che invece sono necessari. Tutte queste sono ipotesi abbastanza normali. Comunque sono chiarimenti che vengono chiesti a colui che vuole esercire, installare e poi esercire l'impianto, esatto. Non ad altri enti terzi? No, questo il chiedere il parere all'ente terzo consiste nell'attività normale che svolge l'amministrazione procedente. E quindi quella deve ricadere in quei 180 giorni. Sì, quella sì. Mentre queste chiarimenti ulteriori sospendono questi 180 giorni. Esattamente. D'accordo. Ecco, gira voce però che al di là, come dire, delle giuste interruzioni, delle sospensioni che ci stanno, mettiamola così, poi raramente questi 6 mesi vengono rispettati. Direi sì, molto raramente, nel senso che il termine è sempre molto, molto più lungo, vuoi per la complessità effettivamente delle valutazioni che devono essere fatte in questo tipo di procedimento, poi perché in realtà le amministrazioni sono molto spesso in ritardo d'accordo. Nel concludere il procedimento. Ecco, e che cosa può fare un signore che sta mettendo giù un megawatt di impianto? C'è un modo, insomma, per cercare di tutelarsi da questi ritardi? Ecco, occorre rivolgersi al giudice amministrativo chiedendo di condannare l'amministrazione procedente, quindi la regione o la provincia, a pronunciarsi entro un termine che fissa il giudice. Se poi decorso questo termine l'amministrazione ancora rimane inadempiente, il tribunale amministrativo può nominare un commissario ad acta che si sostituisce all'amministrazione e conclude il procedimento rilasciando o negando l'autorizzazione. Grazie Lucia Bitto. Prego. Bene, insomma, avete capito che non tutto sempre si svolge con linearità. Domani torniamo a parlare di autorizzazione unica, cerchiamo di capire che cosa fanno le regioni. Buona serata.